A tempo di sport di Gigi Garanzini. Non avendo visto Italia-Olanda per la concomitanza con la serata finale della rassegna della canzone d'autore, insomma il Tenco di Sanremo per intenderci, concomitanza per me assolutamente prioritaria, ho chiesto aiuto ad Adalberto Bortolotti per fronteggiare gli interventi di oggi, e vostri per iscritto o in diretta come al solito all'800 24 00 24, e nel cambio sono certo che non ci perderete di sicuro. Adalberto, buongiorno. Ciao Gigi e buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori. Ma nel cambio intanto ci hai guadagnato tu, perché sicuramente ti sei divertito. Questo maggiormente. Sì. Questo sì. Non c'è stato da saltare sulle sedie, vedete. No, Olanda, no? Ecco, io volevo cominciare proprio da quello, e cioè è stata una, visto che è una tappa di avvicinamento al mondiale, è stata una tappa utile, come si usa dire in questi casi, oppure banale, oppure un pochino sprecata? Ma una tappa utile, è stato un avversario forte, affrontato con una certa carica agonistica, ricambiata peraltro. Mi passo che Chiellini da una parte e De Jong dall'altra abbiano fatto pochi sconti al fair play dell'amichevole, però vissuta su un annullamento reciproco, cioè portieri disoccupati, pochi tiri in porta. Sono quelle partite che una volta noi cronisti antichi definivamo di una noia mortale, che adesso dicono ben giocate, con grandi equilibri tattici, ben disposte in campo le squadre. Mi meraviglierei anche del contrario, visto che si trattava della terza e della quarta potenza secondo il ranking della FIFA. Certo. Però ecco, io ripeto, fremiti. Poca ho visto buone cose da un giovane Candreva, forse anche sopravvalutato dai commenti televisivi, perché sentito votazioni stratosferiche, però di buona personalità. L'avevo già visto una volta in campionato, e finalmente è un ragazzo che non si accontenta del compitino, sbaglia, ma per tentare cose importanti. Questo mi è sembrato un fatto positivo. Per il resto nulla che non si sapesse, ecco. Proprio Candreva, leggo da un'agenzia appena uscita, dovrebbe quasi certamente giocherà anche la seconda amichevole, cioè quella di mercoledì sera contro la Svezia. A parte, tu dicevi di De Jong e di Chiellini, io credo che qualcosina di sgradevole verrà fuori da parte degli olandesi, o forse direttamente dell'Arsenal, perché pare che Van Persie se ne faccia per 3 mesi per l'entrata di Chiellini. Che non è stata un'entrata né fallosa, però estremamente decisa, di quelle che in genere in un incontro di composta relativa ci si risparmia. Ecco. Senti, hai detto terza e quarta potenza mondiale si sono grosso modo annullate a vicenda. Spagna-Argentina, la Spagna ha giocato certamente meglio, di quella qualcosina ho visto in nottata, e quindi ha meritato di vincere, ma insomma un discreto equilibrio. Equilibrio anche in Brasile-Inghilterra, nonostante l'Inghilterra avesse in campo quasi solo rincalzi. Le partite di qualificazione mondiale, tutte risolte con un gol di scarto al massimo, oppure finite in parità. È l'attesa del mondiale che genera questi equilibri, oppure il calcio sta tornando, o è già tornato verso quel livellamento in basso che poi significa mediocrità? Ma io credo che ci sia un grande livellamento nel momento attuale. Poi è chiaro che non tutti vogliono giocarsi le carte in anticipo. Ad esempio l'Inghilterra era veramente un'Inghilterra di cui vedremo non più di 2 o 3 giocatori nel corso di tutto il mondiale, occhi e croce, perché devo anche dire che l'Inghilterra è forse la squadra, la nazionale che paga di più qualche assenza importante, perché Capello ha, a mio avviso, una formazione molto molto competitiva, ma bloccata sulle prime scelte, ecco, non ha grandissimi ricambi. D'altra parte leggevo che nella Serie A inglese, nella Premiership, solo il 28% dei giocatori sono inglesi, e non è che poi di inglesi ne trovi tanti in giro per il mondo, quindi la scelta è quantitativamente limitata. Se mancano i valori di punta, la competitività cala bruscamente, quindi ritengo un buon risultato per l'Inghilterra aver perso 1-0 con un Brasile che aveva sì delle assenze, ma schierava anche parecchi dei suoi assi, ecco. Certo. E la vado in ordine sparso. La formazione dell'Italia è presumibile sulla base dell'allenamento di stamane, potrebbe essere con la Svezia Marchetti in porta, e poi da destra a sinistra in difesa Maggio, Legrottagli e Chiellini, Criscito, a metà campo Candreva per l'appunto con Biondini e Montolivo, e davanti Marchionni, Pazzini e Di Natale. Beh, non si può dire che non sia una squadra sperimentale questa, sperimentale alla massima potenza, direi. Anche qui vale il discorso fatto prima, non ne vedremo tantissimi nel corso del mondiale. Ci sono secondo me alcune cose interessanti da vedere. Ad esempio Maggio può essere Maggio schierato come esterno basso, come uso dire adesso, no? Sì. Cioè, come terzino. Può essere effettivamente un esperimento da valutare, perché è un giocatore che può fare la doppia fase, sia certo, in senso fisico sia anche come attitudini. Sì. E lì noi abbiamo due titolari che sono molto bravi, ma anche abbastanza attempati. Diciamo. Attempati non è male come... Senti, ti giro subito una mail. Ci sono già degli ascoltatori in linea che poi mi permetterò di passarti dopo il primo intervallo. Andrea Giacomoni scrive: mi piacerebbe stigmatizzaste come si deve la sceneggiata di Pazzini, nel senso che la stampa e i commenti televisivi hanno minimizzato, ma io credo che quella mano inquadrata da 100 telecamere, ma soprattutto i festeggiamenti che ne sono seguiti, facciano del male a lui, alla nazionale e indirettamente anche alla Sampdoria. Cosa ne pensi? Ma io sono abbastanza d'accordo, perché c'è stata una netta diversità fra le cose che ho visto e le cose che ho letto dopo. In quanto il gol è stato festeggiato dalla squadra, e Pazzini era fra quelli che festeggiava di più, cioè abbracciato da tutti, eccetera. L'arbitro è stato richiamato dalle proteste abbastanza indignate degli olandesi, non tanto per presenza, perché Pazzini aveva fatto un intervento da pallavolista in fase difensiva, proprio un salvataggio del libero che adesso gioca nella pallavolo. E successivamente pare invece accreditata la versione che, o su input di Lippi o addirittura spontaneamente, Pazzini si sia autodenunciato. Si sia poi autoaccusato. Ecco, io questo non l'ho visto. Ho visto invece i festeggiamenti troncati quando l'arbitro, essendosi consultato, non so se con chi ormai guarda le partite in TV ed è in collegamento diretto, perché credo che questo sia ormai una realtà anche positiva, se vogliamo, oppure richiamato da Lippi, questo onestamente dal teleschermo non lo si è afferrato, ecco, solo quando è intervenuto l'arbitro mi pare che i festeggiamenti siano finiti. Sabatero a San Siro, scrive Marco, ed è una mail campione, perché ce ne sono tante, soprattutto questo è un SMS per la verità, tante mail ho ricevuto in materia, ed è stato uno spettacolo unico, parola ad un calciofilo pentito. Il rugby sì che è uno sport sano, è vero. Marco, io a me piace fare il contropelo ogni tanto, ne riparliamo dopo, adesso siamo sul calcio con Alberto Bertolotti, poi nella seconda parte vorrei fare un po' di osservazioni su questo argomento. Dunque, ad Alberto, io ascolterei Sergio dalla provincia di Modena, buongiorno. Buongiorno. Dica Sergio. Io chiamavo per questo, ho sentito un'intervista a Pazzini, sì, che diceva di non sentirsi in concorrenza con Amauri per un posto in nazionale in quanto Amauri brasiliano. Non ho ancora sentito nessuno dire non mi sento in concorrenza con Camoranesi, anche se Camoranesi è argentino. E poi riguardo alla partita di sabato di rugby, ho sentito interviste ai giocatori italiani che l'italiano a malapena lo parlavano. Chiedevo un parere sulle convocazioni della nazionale, non vorrei che le nazionali nel giro di pochi anni potessero diventare delle squadre di club a raggio più ampio. Ecco. Era proprio lì che volevo arrivare, il rugby c'è diventato da molto se è per questo. Pazzini stamattina ha anche rincarato un po' la dose, ha detto: devo confessare che questa candidatura di Amauri un po' mi dà fastidio. Capisco se uno è mezzo italiano e mezzo brasiliano, ma se non è per niente italiano è un altro conto. Cosa ne dice Adalberto? Ma io il timore dell'ascoltatore che ci parlava prima è estremamente fondato. Voglio dire, noi siamo ancora indietro, non so, dovrei aggiungere fortunatamente sotto questo profilo, perché ci sono squadre che ormai hanno allargato completamente. Insomma, la Francia addirittura è una realtà multietnica, ma nell'ambito francese, diciamo così, di passaporto. Cioè, non toglie che l'intervento di altre scuole sia stato decisivo nella crescita internazionale di una nazione che sino allora non aveva fatto moltissimo, insomma, a livello appunto internazionale. Ma la stessa Inghilterra raccoglie. Ma noi abbiamo appunto i casi camoranesi che non capisco questa polemica di Pazzini, perché se Amauri è brasiliano, camoranesi è argentino, questo non c'è dubbio. Però abbiamo casi abbastanza limitati. Nel calcio. Infatti il paragone con Rugby ci stavo pensando anch'io, perché l'ho vista la partita con Rugby, e in effetti sentivano interviste che dicevo, se valesse quella regola che vogliono introdurre in Inghilterra, secondo cui uno può andare a giocare nei loro campionati solo se parla l'inglese, e l'applicassero qui, questi in Italia, in nazionale italiana, ci entrerebbero mai. Ma insomma, no, io credo che sia purtroppo un punto a cui arriveremo, di allargare molto e quindi di annacquare la radice nazionale, diciamo, di una squadra. Nel momento mi pare che noi stiamo nei limiti della decenza, e personalmente non mi scandalizzerei di Amauri, perché io credo che bisogna sempre guardare più alla sostanza che alla forma. E allora Amauri è un giocatore che in Brasile conoscevano a malapena, che non hanno mai considerato, e che si è formato calcisticamente in Italia, perché da quando è venuto, mi pare, al Chievo, ad adesso ha fatto della strada, e l'ha fatta con istruttori italiani, temprato dal calcio italiano. Discorso che vale anche per Camoranesi, che sicuramente da quando è arrivato ha fatto passi da gigante. Diverso sarebbe che andassimo a prendere Kakà, e poi, che pure è arrivato qui giovane, ma già campione, ecco. Io credo che questi casi, tutto sommato, non siano scandalosi, perché premiano due giocatori allevati e sicuramente progrediti nell'ambiente italiano. A differenza di quanto accade nell'hockey in maniera esponenziale, di quanto accade nella pallavolo e di quanto accade nel rugby. Sentiamo ancora un ascoltatore milanese, Moreno, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Io volevo farle tipo una domanda e una considerazione. Ho letto stamattina sulla Gazzetta che praticamente Ferrara avrebbe il dubbio di dove schierare Del Piero nel nuovo assetto tattico della Juventus, che premetto, vista sempre a Torino, non mi convince molto. Ma secondo me, guardi, che Del Piero là davanti, se solo sta bene, è largamente il migliore di Amauri, Trezeguet, Quinta, Diego, Giovinco. Il problema è solo la salute fisica, ma nel momento che sta bene, a mio avviso Del Piero è largamente il migliore. Volevo sapere un suo parere anche dal professor Bortolotti. Sì. Grazie, buona giornata. Io, professor Bortolotti, caviamocela in 30 secondi, dica. Ma è un problema, la Juve, se tutti i suoi attaccanti stessero bene contemporaneamente, avrebbe delle alternative praticamente sconfinate. Credo che sia un problema di compatibilità. Mi è difficile pensare a un paragone se sia meglio Del Piero da Amauri, perché fanno un lavoro diverso, e così Del Piero e Trezeguet. Del Piero sarebbe un ottimo partner sia per Amauri, sia per Trezeguet, sia per Iaquinta. Come in certe ultime apparizioni lo è stato Diego, che ha cominciato a giocare più vicino alla punta, in quasi da seconda punta. Quindi io credo che la riappropriazione di Del Piero dia una carta importante in più alla Juve nella formazione della coppia più funzionale, per cui al momento, insomma, non vedo il problema, né vedo perché Del Piero anche se stesse bene dovesse giocare sempre, credo certo. che sia certo. giusto che entri nelle rotazioni con la giusta considerazione che il suo ruolo di fuori classe impone, ecco. E che quelli appena compiuti il 9 novembre sono comunque ecco, 35. E quello è il limite, insomma, 35, ecco. Oggettivamente. Allora facciamo così. Un paio di domande, ma che poi si riconducono a una, te le faccio io, perché poi arriviamo alla fine del collegamento, e questa mi interessa molto da te. C'è un problema, secondo me, di CT ormai, no? Che mi sembra praticamente ufficiale, e cioè Casiraghi sta per lasciare, forse non dico stasera o domani, ma insomma sta per lasciare l'Under 21, e ci si chiede chi potrà essere il successore, cioè se tornare a, diciamo, alla scuola federale come usava i bei tempi, e in questo caso toccherebbe probabilmente a Rocca, oppure se attingere anche qua al mercato. Al mercato mi pare si dovrà certamente attingere subito dopo il mondiale, per questo addio non annunciato da lui, ma insomma poi acclarato nei fatti di Lippi. Tutto questo non è bellissimo a parer mio. No, beh, diciamo che l'Under 21 a me pare istituzionalmente debba essere guidata da un tecnico federale. Sì. Questo credo che rientri anche nella tradizione, da Vicini a Gentile stesso, insomma, a quelli che l'hanno seguito. Perché sarebbe persino sprecato, io credo, un tecnico, diciamo, da reperire sul mercato per una formazione che deve scontrarsi con mille problemi, cioè le esigenze primarie della nazionale maggiore, che ti può portare via giocatori importanti all'ultimo momento, le remore dei club di fornire giocatori, comunque di trovare tutte le strade possibili per risparmiare i propri campioncini, eccetera. Quindi credo che la gestione stessa di questa squadra debba essere affidata a un tecnico della scuola federale. Diverso è il discorso per la nazionale maggiore, perché ormai abbiamo visto anche all'estero si va sul grande tecnico, cioè il Capello, gli Hiddink, eccetera, sono questi che guidano nazionali che hanno bisogno appunto di un personaggio di spicco. Non mi convince molto questo avanti indietro di Lippi con la nazionale. Piede a terra, che... no? Io un anno fa ho detto, ma quando tornava, dico, ma l'ha presa per un piede a terra la nazionale? Ecco, no? L'idea è di questo salire e scendere in mancanza di meglio, oppure quando non si ha nulla da fare o quando si è annoiati dall'inattività. Ecco, questo non mi sembra, siccome Lippi giustamente continua a sottolineare che noi siamo campioni del mondo, lo siamo stati 4 volte, quindi per carità, siamo una potenza calcistica mondiale, forse un maggiore rispetto per la nazionale ci vorrebbe proprio da chi la guida. mi sembra una frase scolpita con cui chiudere questo tuo intervento di oggi, di cui ti ringrazio come sempre con molto affetto. Grazie ad Alberto. Grazie a te, a risentirci presto. E allora chiudiamo il collegamento con Bologna. I due ascoltatori già collegati insomma, passano direttamente alla seconda parte del programma, insieme a quell'altro argomento che abbiamo un po' ereditato, che è quello della lettura in controluce, secondo me, di Italia All Blacks di sabato a San Siro, senza minimamente mettere in discussione quello che di bello c'è stato dal punto di vista ambientale, e per quello non basta applaudire, bisogna spellarsi le mani per la cultura e la civiltà del rugby, ma poi, ripeto, qualcosina da leggere in controluce c'è anche lì. C'è un altro bresciano, si chiama Alessandro, buongiorno. Salve Garanzini. Dica. Allora, io la sento poco, sono anche emozionato, perché per la prima volta parlo ad una radio. Ah, ecco, e volevo che magari dicesse due parole appunto del rugby, perché io ero a San Siro sabato pomeriggio e non era una sfida, era una festa quella che io ho visto a San Siro. 80.000 persone educate, avevo davanti tantissimi bambini che si divertivano. È una cosa importante, non avevano paura di stare lì, certo. A differenza del calcio, ecco, tutto lì. Ma io questo lo condivido in pieno, Alessandro, e terrei a sottolinearlo molto. E cioè, non so, io ho anche qua delle mail. Oliviero scrive: arrivo allo stadio alle 14:40, secondo anello verde, trovo il mio posto libero dalla prima cosa incredibile del pomeriggio. Poi silenzio all'inno nazionale neozelandese, poi gli applausi alla fine di ogni inno, poi ogni azione sottolineata dagli applausi, e poi, eccetera, eccetera. Roberto Savastano da Milano scrive: ero una volta abbonato al Milan, dopo tantissimi anni di tribuna rossa all'estate di Calciopoli mi ha convinto che poteva bastare. Ho debuttato col rugby l'altro giorno e pur capendone abbastanza poco tecnicamente, quelle 80.000 persone in festa e le famiglie entrate allo stadio con bambini, nonni e tante mamme mi hanno lasciato a bocca aperta per il divertimento. Io su questo non solo non ho nulla da ridire, ripeto, ma credo che davvero il rugby vada preso a modello per questa civiltà di fondo di chi lo gioca e soprattutto di chi lo guarda. C'è proprio una frontiera rispetto al pubblico del calcio, soprattutto in Italia. Io facevo un altro discorso. Tutto questo lo diamo per acquisito. Poi cominciamo a mettere in fila. Io leggo 9 dei 15 nomi che hanno giocato con la maglia azzurra l'altro giorno: McLean, Robertson, Canale, Garcia, Gower, Parisse, Gelde, News, qualcosa del genere, Castro Giovanni. Insomma, sono australiani, nuovazelandesi, argentini, sudafricani, argentini, eccetera. Così, per completezza di informazione, le segnalo anche che gli All Blacks avevano in campo dai 2 ai 3 titolari, no? E che la partita è finita ugualmente 20-6. Allora io dico che se si fosse giocato Italia All Blacks con gli italiani in campo, no? I nostri rugbisti italiani, quelli come nel calcio, magari con una Mauri, ecco, o un Camoranesi, contro i titolari degli All Blacks, probabilmente finiva 120-3 e probabilmente gli 80.000 la prossima volta sarebbero 80, secondo me. Ecco, questo dico io. E sarebbe un vero peccato, perché? Perché la civiltà che si respira nel rugby vedendolo e giocandolo è nettamente superiore a quella del calcio. Ho l'impressione però che sia attualmente uno sport da marketing e quindi che vada gonfiato, che sia gonfiato dal punto di vista appunto di alcuni parametri, per esempio quello che l'ho raccontato. Gerardo da Torino, buongiorno. Salve Gigi, innanzitutto fa piacere parlare con lei, perché da umile collega l'ho sempre stimata, questo. Io, e poi volevo darle un pochino man forza, perché veramente non se ne può più. Hanno fatto dei editoriali sul rugby da Istituto Luce, veramente come se fosse, non so, come se fosse stata questa impresa. E poi mi ricordo, io ricordo del rugby, io appassionato di calcio, un ricordo del rugby la domenica sport, alle 2 che interrompeva sempre le partite, per cui se non sei nato nella Marca, non sei un trevigiano, cioè è difficile appassionarsi al rugby se uno non è no, questo no Gerardo, non esageriamo, non è che occorre essere trevigiani o parmigiani o corri. Il rugby io trovo che sia una disciplina splendida. Trovo però che come sempre da noi andiamo a mode, B stiamo anche un po' truccando le carte è un'espressione un po' forte, mi rendo conto, però insomma questo, ripeto, la proporzione di 20-6 ci sta soltanto se noi giochiamo infarciti di stranieri e se loro giocano con i rincalzi e allora questo chiaro che è a beneficio degli 80.000. Chiaro che proprio perché per una volta che debutti a San Siro e che giochi davanti a una platea straordinaria, tutto questo è funzionale a... Però voglio dire che nel rugby c'è una criticità assoluta ancora, essendo uno sport molto ma molto meno scafato del calcio. Se fosse successo, se una cosa del genere, magari dopo proviamo a fare un paragone, succede nel calcio, beh, li voglio vedere i cosiddetti media, non media. Questo è un errore che ho fatto spesso anch'io in passato e che mi è costato una seria ramanzina del bravo presentatore della rassegna Tenco Sanremo, che è un preside di vaglia e che si chiama Antonio Silva, che mi ha ricordato che media è latino e quindi va pronunciato così, non va pronunciato media all'anglosassone. dicevo, provate a immaginare che l'Italia, appunto, cioè che vada così su Italia All Blacks dal punto di vista delle formazioni, delle facili naturalizzazioni, eccetera, e poi vedete cosa scrivono i giornali se si trattasse di calcio anziché di rugby. Da Padova ha chiamato Luciano, buongiorno. Buongiorno, dica. Ciao Gigi, sei un grande, come sempre. E a proposito del rugby, la partita, sì. Pronto? Sì, certo. Niente, una lezione di vita, oltretutto di sport, di comportamento. Ho visto una partita a casa, non ero lì, per mia sfortuna. Una cosa meravigliosa, un esempio per i protagonisti, per il calcio, certo. Per il pubblico, sempre in riferimento al calcio, che non riconosco più, perché a mio modo di vedere si sta perdendo, stanno perdendo tutti i valori che aveva il calcio una volta, e lo stai prendendo adesso il rugby. Certo. Questo era quello che volevo dire. Lei non ha capito, mi scrive Alberto da Treviso, che 80.000 persone sono andate allo stadio sicure di perdere. Nel calcio questo sarebbe accaduto? Guardi Alberto, io non lo so, forse no, però le dico che 50.000 persone sono andate allo stadio perché in questo momento è di moda il rugby, esattamente come quanti anni fa se ne alzavano alcune decine di migliaia di notte o centinaia di migliaia per vedere Azzurra, o come sono paralleli ai discorsi che sono già stati fatti in questi giorni da qualche bastian contrari come me, indubbiamente, però io sono possibilmente sempre per le letture critiche, non per quelle acritiche, no? Così semplicemente come spunto di riflessione, e credo che valga la pena, ma forse nell'interesse stesso del rugby, perché ho l'impressione che se si gonfia in maniera così, che per me è un pochino innaturale, non ha quella crescita tale da porre delle radici profonde, forse. Filippo ha chiamato da Udine, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garantini. Volevo solo fare una piccola puntualizzazione, che i naturalizzati nel rugby sono in tutte le nazionali. Se lei vede ad esempio nell'Australia il numero 12 Cooper, uno dei nuovi fenomeni, è neozelandese. Tipo Sivi Vatu è samoano e gioca negli All Blacks, quindi è normale nel rugby queste cose. Sì, ma rispetto al calcio, diciamo. No, ma io, ma no, non solo rispetto al calcio, il calcio non deve essere un parametro assoluto. Però io trovo che se parliamo della formazione di partenza della cosiddetta Italia di sabato, 9 su 15 sia una percentuale imbarazzante, questo dico. Sì, ma come dice qualcuno, 50 anni o 60 anni di rugby non si imparano in un anno, e è quello il difficile, quindi che ben vengano argentini e altri a insegnarcelo, se no... No, ma insegnarcelo va bene, insegnarcelo va benissimo. C'era prima una mail che sto cercando di ripescare, perché mi sembrava interessante da questo punto di vista. E cioè quali potrebbero essere i parametri per una maglia azzurra, non riesco più a trovarlo, se ce la faccio, insomma, lei, eccolo qua. Stefano scrive: dovrebbero essere tre i parametri per l'eleggibilità in nazionale: il luogo di nascita, il luogo di formazione e il domicilio fiscale. Chi ne ha due su tre è convocabile. Adesso mi sembra un po' da quiz questa, no? Magari piacerebbe al ministro Tremonti, ma insomma qualcosa del genere, qualche paletto un pochino più elevato. Qualcuno scrive un altro messaggio che adesso ho perso, ma che prima avevo intercettato: è perché l'Inter con quanti stranieri gioca? Certo, ma infatti è una squadra di club, non è una nazionale, e c'è una leggerissima differenza, io credo, se la vogliamo cogliere. Se invece non le vogliamo cogliere, va bene tutto. Mi sono dimenticato di una sottolineatura prima che mi fa molto piacere, perché una persona molto seria del mondo del calcio che ho sempre apprezzato è Antonioli, portiere attualmente del Cesena, prima del Bologna, ha vinto uno scudetto con la Roma, è cresciuto nel Milan, eccetera. Antonioli ieri ha parato due rigori nella stessa partita, uno all'inizio e uno alla fine a Mantova, e con queste due parate ha consentito una vittoria esterna del Cesena, dato che è una prodezza che non accade spesso, quello di due rigori parati in una partita, che l'abbia compiuto un quarantenne come Antonioli, mi ha fatto personalmente piacere. Da Rimini ha chiamato Marco, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie. ragazzi. Dica. Dunque, anzitutto sono ampiamente d'accordo con la sua riflessione. E in più sono assolutamente d'accordo sul fatto che in Italia andiamo spesso per mode. E secondo me questo è un problema, perché si perdono delle occasioni, perché ad esempio il rugby è uno sport che avrebbe da insegnare effettivamente, ma non è nelle nostre corde, non è nella nostra cultura. Imparare. Imparare, esatto. Certo. È una cosa invece tipica del mondo anglosassone, dove, o del mondo, non so, della Francia, della Nuova Zelanda, dove c'è un altro tipo di mentalità sportiva. E poi anche un'altra cosa, i famosi 80.000 di San Siro, io sono convinto che, non so, non voglio esagerare, ma almeno 40-50.000 erano gli stessi che normalmente vanno a vedere Inter e Milan. E quel giorno si saranno detti, cosa facciamo oggi? Non c'è l'Inter e Milan, andiamo a vedere gli All Blacks che vanno di moda? Quindi... Beh, questo però non è negativo, Marco. No, non è negativo, perché hanno visto nel frattempo, no, stia in linea, hanno visto nel frattempo che... Come diverso lo spirito, come diversa l'educazione di base, come diverso l'approccio, no? La esatto. Fruizione dello spettacolo. Poi, fin qui dovremmo essere addirittura più enfatici, perché proprio perché viviamo in un paese incivile dal punto di vista sportivo, questi spettacoli di civiltà vanno sottolineati ancora di più, secondo me. Però ecco, a patto poi di non santificare. Sì, la qualità di quello che viene sul campo. C'è molta retorica purtroppo nel nostro paese da questo punto di vista. Bravo, bravo. Eravamo diventati, si ricorda Azzurra, no? Noi eravamo diventati un paese di navigatori, no? Beh, sì, siamo sempre stati, di santi, di poeti, eccetera. Lì eravamo soltanto più navigatori, ma navigatori di vaglia, intendiamoci. Marco, grazie. Andiamo a Lecco da Gianni, buongiorno. Niente, in parte a buongiorno. Buongiorno, complimenti alla trasmissione. Volevo, in parte ha già risposto all'osservazione che volevo fare dei 50.000, che anche se erano lì, come ha detto lei, l'importante è che abbiano visto come si può andare, come si può partecipare, certo, a una manifestazione in un modo diverso. Capisce? Certo, senza, perché ha anche... già risposto quello che volevo dire. Volevo sottolineare l'importanza educativa del rugby, perché ho avuto un figlio che ha giocato nelle scuole medie superiori e devo dire che ha lasciato veramente il segno. Cioè, questa è una cosa importante che dovrebbe essere sottolineata a livello anche dei media, certo, come diceva prima. Tutto, certo, lì. È vero, è vero. Perché sono uno che guarda e segue con passione quello che avviene. Gianni, la ringrazio. Dato che questo argomento mi ha appassionato, mi sono dimenticato che era tempo di riascoltare il ripasso di storia, quello affidato come sempre a Nicola Filippone, immaginando una puntata azzurra, ma azzurra nel senso del pallone, invece l'è diventata nel senso, più nel senso del rugby, si è trovato nella sua ricchissima agenda storica, si è trovato una data con un debutto importante in maglia azzurra. Sentiamo. Sembra ieri. 16 novembre 1988. All'Olimpico di Roma, la nazionale italiana sfida l'Olanda campione d'Europa in un'amichevole organizzata per festeggiare i 90 anni della FIGC. Il CT Vicini fa esordire Roberto Baggio, talento della Fiorentina, schierandolo a ridosso delle punte Vialli e Rizzitelli. Il 21enne Viola non patisce l'emozione del debutto e realizza su punizione l'assist per il gol partita di Vialli. Dopo Italia-Olanda, Baggio giocherà altre 55 volte con la maglia azzurra. Con 27 reti è, insieme a Del Piero, il quarto marcatore di tutti i tempi, alle spalle di Gigi Riva, Giuseppe Meazza e Silvio Piola. Beh, 27 gol in 56 partite è una media molto alta, è una media che in Italia di giocatori che abbiano indossato la maglia azzurra è vantabile da pochi. Beh, è inutile che torni sul dettaglio, perché mi pare che il concetto sia passato abbastanza chiaro. Certo, leggere la formazione dell'Italia del rugby mi ha fatto venire in mente quale sarebbe stata, per converso, la formazione della nazionale del calcio con questi parametri. Cioè, faccio per dire Buffon, Maicon, no? Poi magari, non so, Maxwell l'altro anno, non mi viene in mente adesso un esterno sinistro straniero molto particolarmente forte, ma lasciamoci Grosso, lasciamoci chi ci pare. E poi davanti Milito, Amauri, Camoranesi, direi, no? trio di punta, e a centrocampo qualcuno di quelli, Felipe Melo, Le Dulza Lüga dicono a Milano, cioè, allora è indubbiamente un pochino più facile. Comunque cambiano le cose. Ci dovrebbe essere ancora un ascoltatore in collegamento, non lo vedo ancora sul display, vuol dire che sta per apparire. Michele ha chiamato da Torino, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica, Michele. Io volevo intervenire anch'io sugli spettatori del rugby. Sì. Io non sono molto d'accordo che gli spettatori del rugby siano migliori di quelli del calcio. Cioè, secondo me gli 80.000 che sono andati a vedere la partita di rugby è come se fossero andati a vedere una partita di calcio di cantanti contro attori, perché non c'era nulla di importante, era uno spettacolo come andare a vedere una partita di cantanti. Io la metto più o meno sullo stesso livello. Io vorrei vedere se quella fosse stata una sfida di finale di Champions League del rugby, naturalmente, come sarebbe finita e che spettatori ci sarebbero stati. Quindi secondo me questo è tutto un po'... No, questa, un po' gonfiato. Ma che sia un po' gonfiato sono stato io a introdurlo come concetto. Questa sinceramente non la condivido, anzi la trovo offensiva, perché presuppone che per godersi una partita occorra essere tifosi. Da questo parte lei, no? No. Come no? Io dico che sì, nel senso che gli stessi spettatori, cioè la gente, gli italiani sono italiani, sai che vanno a vedere il rugby, sai che vanno a vedere la partita di calcio. Secondo me sono andate tante famiglie perché era una festa del rugby. Lei sta lì, l'italiano, cioè io fare, cioè, diventa un po' difficile e siamo in chiusura di programma, io devo rispettare assolutamente i tempi. Non sono d'accordo su questa interpretazione, questa è un po' tanto svilente rispetto a cosa è stato sabato. Franco Piantanini in redazione, Roberto Scaltritti in regia, grazie a tutti per l'attenzione, a domani. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. A tempo di sport, di Gigi Garanzini. Wow!